il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Oggi al Quadrifoglio parliamo di un prodotto che probabilmente non mancherà sulle tavole natalizie delle nostre famiglie del Veneto, famiglie e anche ristoranti. Parliamo infatti del radicchio rosso di Treviso, nelle sue due varietà, precoce o tardivo. Per capire un po' di più di questo prodotto, perché credo che molti non sappiano esattamente cos'è e come viene prodotto, anche perché è un prodotto veramente unico nel panorama del radicchio, di cui il Veneto è un po' la regione campione. Per sapere un po' com'è e anche come si può preparare magari in maniera alternativa, abbiamo oggi ospite Denis Susanna, direttore del Consorzio del Radicchio Rosso di Treviso IGP e anche del Radicchio Variegato di Castelfranco IGP. Benvenuto direttore. Grazie, buongiorno a tutti. Ecco, l'idea di partenza era proprio quella di capire un attimo di più. È un prodotto che diamo forse per scontato. Che cos'è e qual è la differenza intanto tra radicchio rosso di Treviso precoce e tardivo? Allora, a parte che sono due ortaggi e portano nomi simili, appunto radicchio rosso di Treviso, tipologia precoce, tipologia tardivo, in realtà siamo di fronte a due prodotti che dal punto di vista estetico e gastronomico, diciamo, hanno caratteristiche completamente diverse. Il radicchio precoce viene coltivato e raccolto a partire dalla metà di settembre ed è un radicchio dalla taglia imponente, il cui processo di maturazione avviene completamente in campo. Il radicchio tardivo, che invece si differenzia per la sua forma, oltre che per il gusto più dolce rispetto al precoce, è un prodotto che si sviluppa soprattutto e ottiene il massimo delle proprie caratteristiche una volta raccolto dal campo e posto in acqua a germogliare. Quindi diciamo uno viene coltivato e chiude il suo percorso tutto in campo, il tardivo invece viene appunto messo in vasche di imbianchimento e diciamo così affinato in questi 15 giorni di nuova vita che viene ad avere appunto una volta raccolto dai campi. Da dove arrivano questi radicchi così particolari? Che storia c'è dietro questo prodotto? Beh, diciamo che del radicchio di Treviso, di queste tipologie di radicchio si parla fin dai tempi antichi, insomma parliamo di alcuni secoli di storia. Però è solo nella storia più recente, negli ultimi 100-150 anni, che il radicchio di Treviso trova diciamo tutte le sue, come dire, storie scritte, le fiere che lo hanno promosso, e soprattutto è iniziata a partire dal Novecento quella che è una tecnica sia di selezione delle piante migliori, dei semi e quindi di un prodotto anche più adatto al consumo di tutti i giorni a tutti i palati, rispetto a quello che invece era un prodotto di un tempo che veniva raccolto, era molto amaro e di cui non si conoscevano sicuramente le tecniche di produzione che vengono utilizzate oggi e naturalmente anche le tecniche poi di trasformazione, di cottura, di preparazione nelle tavole, insomma. Quindi un prodotto antico che però ha saputo innovarsi e trova sempre di più anche nella cucina moderna veramente una versatilità enorme. Ecco, sì, un prodotto sicuramente moderno che viene apprezzato sempre di più anche al di fuori del Veneto. Di che cosa stiamo parlando? È ancora un prodotto di nicchia o comunque è un prodotto che ormai si sta affermando anche come quantità? È un prodotto che si sta affermando come quantità non solo in Italia, anche all'estero. Proprio questa mattina abbiamo spedito 500 ricettari a un'azienda austriaca che è stata in visita da noi qualche giorno fa, che ha deciso di avviare un test nei propri punti vendita, nei propri negozi, e quindi è un prodotto che è destinato a diventare un prodotto di largo consumo. Diciamo che se noi lo paragoniamo comunque ad altri prodotti orticoli o frutticoli o anche dell'agroalimentare italiano, sia dei vini che del lattiero caseario, rimane comunque per i numeri che ha, parliamo comunque di un prodotto di nicchia. Attualmente diciamo ne produciamo grosso modo tra IGP e non IGP una quantità di circa 200.000 quintali. Quello che bisogna mettere sotto osservazione, stare attenti, è il fatto che questi prodotti derivino dalla zona di produzione, perché c'è comunque un tentativo di produrlo fuori zona. Proprio stamattina leggevo una mail di un produttore che chiede alcune caratteristiche per poterlo portare nei paesi dell'est. Quindi qui c'è un po' il lavoro nostro come consorzio, ma anche l'attenzione dei produttori a chiedere che sia quello che arriva dalla zona di produzione dell'IGP, dell'indicazione geografica protetta. Ecco, la zona è la provincia di Treviso e anche mi pare un po' dell'Alta Padovana forse? Allora, l'IGP del Tardivo è un triangolo di una ventina di comuni tra le province di Padova, Treviso e Venezia. Arriviamo per dire a Mogliano Veneto per passare poi a Scorzeno Ale e qualcosa sul Padovano tipo Tre Baseliche. Quindi diciamo è un triangolo proprio specifico e chiunque abbia l'interesse e la curiosità può appunto prendere visione di tutti questi dati anche attraverso il nostro sito internet, dove può trovare appunto sia tutte le indicazioni, le caratteristiche, sia l'area di produzione e i produttori che lo producono, lo trasformano, lo commercializzano. Nel nostro sito si trovano veramente tutte le informazioni. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo tra poco e parleremo anche di come consumare, come cucinare questo radicchio. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Ancora non capisco cosa vuoi di più. Dietro i tuoi silenzi cosa c'è? Scegli l'arma e all'alba di un mattino con la nebbia, conta 10 passi via da me, voltati e poi colpisci, colpisci dritto al cuore, uccidi il nostro grande amore, è meglio se tu finisci il tuo lavoro bene, fino a che non ci sarà più vita dentro le vene. Le stelle sono sogni che svaniscono, fra un minuto il sole sorgerà, e chissà se in fondo a quella luce, nel tuo sguardo, l'ombra di un rimpianto passerà, nell'attimo in cui colpisci, colpisci dritto al cuore, uccidi il nostro grande amore, è meglio se tu finisci il tuo lavoro bene, che non ci sarà più vita dentro le vene. Il primo colpo è ancora un altro e cade giù, in fondo è stato un bene che fossi proprio tu. Le foglie secche, il fango e il freddo che si sente, continua a dirmi che non potrai perdonarmi, mentre colpisci, colpisci dritto al cuore, uccidi il nostro grande amore, è meglio se tu finisci il tuo lavoro bene, fino a che non ci sarà più vita dentro le vene, allora tu colpisci, colpisci. Torniamo in linea con il quadrifoglio. Oggi stiamo parlando di radicchio rosso di Treviso IGP e lo stiamo facendo con Dennis e Susanna, direttore appunto del consorzio di radicchio rosso di Treviso IGP e variegato di Castelfranco IGP. Abbiamo parlato nella prima parte di trasmissione di che cos'è questo radicchio e anche un po' del suo successo. E vediamo ora come si può consumare. Sappiamo tutto, insalata oppure cucinato. Si può dare qualche indicazione, qualche consiglio, soprattutto anche per le tavole natalizie? Allora, per le tavole natalizie sicuramente una parte va consumato crudo, perché secondo il mio punto di vista, ma anche dal punto di vista, come dire, salutistico e gastronomico, esprime il massimo delle proprie caratteristiche. Per Natale possiamo pensare anche a metterlo, servirlo con del pinsimonio, che quindi arredare anche le nostre tavole, arricchire le tavole con dei bicchieri di radicchio tagliato a spicchi e poi appunto intinto dentro a questo pinsimonio, fa sicuramente la sua bella figura, abbinato ad altri ortaggi o semplicemente appunto con un po' di olio extravergine di oliva e un po' di fior di sale. Non dimentichiamo che la griglia rimane uno dei consumi preferiti e uno dei momenti in cui viene consumato di più, accompagnato a dei bei secondi come contorno, insomma, quindi anche alla griglia. E poi il radicchio, soprattutto il tardivo, insomma, perché per Natale parliamo di tardivo, trova il massimo delle sue espressioni in tutte le ricette a cui noi possiamo pensare, dagli antipasti, i primi, i secondi, i contorni, fino ai dolci. Cioè, la forza di questo prodotto è la sua versatilità. Proprio in questi giorni eravamo in fiera, alle fiere di Santa Lucia, alle antiche fiere di Santa Lucia, e c'erano con noi dei ragazzi di MasterChef, dei cuochi, diciamo, che ormai sono diventati molto famosi per le loro capacità e per la loro simpatia, e lo hanno provato. Noi eravamo lì presenti e sono rimasti veramente stupiti della versatilità che ha questo prodotto. Quindi si può veramente abbinare a tutti i piatti. Un consumo e un metodo che sta sempre prendendo più piede è anche quello di prodotti trasformati. Abbiamo il sott'olio, abbiamo il radicchio grigliato, marinato, abbiamo le confetture, le mostarde, le salse, insomma, si adatta in maniera straordinaria a tutte le trasformazioni. Non dimentichiamo che alcune aziende dell'agroalimentare ormai lo stanno usando veramente in maniera imponente, ad esempio nella birra, per fare la birra radicchio. Certo. Abbiamo i panettoni, dove si fa una semicanditura di questo radicchio, e quindi il panettone a radicchio, abbiamo le fregolotte, abbiamo dei dolci tipici trevigiani, insomma è veramente un uso, un utilizzo che ormai è trasversale e fa di questo prodotto veramente un qualcosa che non può mancare dalle tavole natalizie, assolutamente. Senta, un giusto prezzo di questo prodotto, perché poi se ne trovano anche vari, indicativamente. Allora, diciamo che più si va lontano dal luogo di produzione più costa, e poi è sempre il tempo che lo fa, perché se il tempo è cattivo il prodotto costa di più, se il tempo ci aiuta c'è più quantità e quindi il prodotto costa un po' meno. Diciamo che un buon prezzo oggi varia parliamo di indicazione geografica protetta, quindi certo, quello col bollino riconosciuto dal consorzio, andiamo dai 5 ai 10 euro al chilo a seconda appunto della zona, del tipo di confezionamento. Possiamo arrivare, se andiamo a Berlino o andiamo in qualche a Roma, in paesi molto più lontani dove incidono anche i costi di trasporto e quindi la freschezza diventa dirimente, possiamo arrivare anche a 15-16, però diciamo che per quanto riguarda il Triveneto, quando parliamo dei 5-10 euro al chilo, diciamo che è un prodotto che ha il suo giusto prezzo. Ecco. Un ultimo accenno la volevo dedicare al radicchio di variegato di Castelfranco, di cui non abbiamo ancora parlato. Sì, beh, anche questo è un prodotto tutelato dal nostro consorzio, viene prodotto in una zona più estesa, superiamo i 50 comuni, in una zona più estesa rispetto al tardivo, che viene prodotto solo in area Parco del Sile. È un prodotto che è molto delicato, diciamo si adatta un po' meno a essere fatto cotto, però come contorno è un prodotto straordinario e anche diciamo in alcuni piatti molto delicati. Tra l'altro se qualcuno ha la pazienza, in internet trova tantissime ricette anche con radicchio variegato. Diciamo che questo è un prodotto che troviamo IGP a partire dai primi di ottobre e quello che merita è sicuramente la sua bellezza, i suoi colori, perché diciamo appunto con queste striature su questo giallo verdognolo, diciamo di queste foglie, arricchisce i nostri piatti, dà un tocco di eleganza ed è comunque un prodotto molto delicato che come tutti gli ortaggi, come tutti i radicchi, fa bene alla salute e soprattutto, visto che a Natale tendiamo a mangiare sempre un po' di più, ha delle qualità, delle doti, diciamo, soprattutto positive per quanto riguarda la digestione. Quindi perché le componenti amarognole, diciamo così, leggermente amarognole, stimolano l'attività del fegato e quindi aiutano anche la digestione, assolutamente. Bene, grazie direttore di questi preziosi consigli. Grazie, buon Natale, buone feste a tutti i radioascoltatori. Grazie anche a lei. E con questo faccio anch'io gli auguri a tutti gli ascoltatori, perché questa è l'ultima puntata dell'anno del Quadrifoglio. Torneremo in linea il martedì 12 di gennaio. Vi ricordo comunque che potete riascoltare tutte le puntate del 2015 sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.